tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale. Questa settimana apriamo con le disgrazie del clero per contrastare l'asserito potere protettivo di preghiere, patroni e pellegrinaggi. A Pisa, sacerdote investito e ucciso da un'auto pirata caccia all'automobilista. Evidentemente l'angelo custode era un po' distratto. Terribile tragedia clericale a Udine. Cede l'acquasantiera nel collegio. Bimba di 7 anni muore travolta. Anche qui l'angelo custode era latitante. Probabilmente era scappato in Slovenia. Disgrazie clericali. Muore per meningite a Genova dopo una festa parrocchiale. Dico sempre, evitate come la peste, le chiese e tutte le robe parrocchiali. E purtroppo questa signora non ha dato retta ai miei consigli. Sui misfatti clericali abbiamo dal Fatto Quotidiano del 21 novembre, in bilico, nonostante una condanna a 6 mesi di carcere per aver coperto un grave caso di pedofilia, il cardinal Barbarin di Lione non è stato ancora rimosso dal Papa. Il sistema Barbarin, sesso, potere, bugie e protezioni a destra. I suoi metodi, le allusioni e le sue domande sul sesso mi hanno sempre messo a disagio, dice un povero seminarista. Per padre Marie-Dominique Philippe, già accusato di aver molestato le suore, il vescovo propose addirittura di farlo santo. Il vescovo e gli abusi in seminario. Ordine di cattura per l'italo-argentino Monsignor Zanchetta. Spiccato un mandato internazionale per il presule argentino che però è al riparo in Vaticano. Covo di pedofili. Vaticano assassino. Emanuela Orlandi, il testo della telefonata dei rapitori va reso noto. Lo dice il settimanale giallo di novembre di quest'anno. Un mistero lungo 36 anni. Insomma, pare che in Vaticano arrivò questa telefonata e il Vaticano l'ha nascosta, invece di collaborare con le indagini. Vaticano criminale. Il prete Orcole diceva, è solo un gioco, ma la bimba lo registrava. Cosa è successo a Caserta? Il solito parroco pedofilo è incappato però una ragazzina sveglia che ha registrato le sue molestie e quindi l'arresto è inevitabile. Un maglioncino non è bastato, abbandonata muore neonata. Siamo proprio a Firenze. La piccola trovata in un borsone, anche qui essendo legale in tutta Italia e quindi anche a Firenze l'interruzione volontaria della gravidanza, come mai questa signora si è ridotta a commettere un infanticidio? Evidentemente siamo in presenza o di una suora o di una persona, di una ragazza ingravidata dal prete, o comunque è molto probabile che siamo in presenza di un aborto clandestino di matrice clericale. Poi ricordo sempre il famoso frate ladro, buco da 23 milioni di euro di frate Renato Beretta, bustocco ad honorem. Ha perso i soldi delle casse francescane in spericolati investimenti. Adesso vive confinato a Trieste. Spariti 23 milioni di euro. Altro che aiuti ai poveri. Notizie anticlericali. Lo storico sorpasso dei matrimoni civili su quelli religiosi. Leggiamo dalla Repubblica del 21 novembre 19, pagina 22. siamo al 50,1% di matrimoni civili. Speriamo che il governo si accorga che ormai i cattolici sono in minoranza. E Corriere della Sera del 21 novembre. In Italia crescono i matrimoni civili, il sorpasso storico, il rapporto del 2018. Anche qui viene dato amplissimo risalto. Poi bellissimo da Arezzo, suora in fuga d'amore e il convento chiude. Cioè, proprio questa settimana è per noi trionfale. Arezzo, la madre superiora rinuncia al velo per un uomo, anche se era una donna, fa niente, e lascia la guida del monastero che viene chiuso. Il giorno del 22 novembre, 19, pagina 16. la prima scintilla ai tormenti e la scelta finale di mollare la vita religiosa. Poi, articolo di spalla, due religiose incinte in Sicilia, che si divertano, che si liberino dalle ipocrisie clericali. Privilegi clericali. Dal manifesto del 19 novembre 2019, la Chiesa Cattolica paga gli arretrati dell'ICI dal 2006 al 2011, emendamento 5 Stelle. Beh, speriamo, se sono rose fioriranno. Soldi alla parrocchia, polemica in consiglio a Auriggio in provincia di Varese. Meno male che anche in provincia c'è qualcuno che protesta. Fine vita e aborto, nasce la chat intelligente, i due fratelli. Cappato hanno messo in piedi questa chat, quindi digitando su Radicali Italiani potete venire a conoscenza di questo strumento informatico che vi spiega tutte le questioni. Poi un breve cenno a contro l'ora di religione cattolica, la nostra bestia nera. Non può essere materia curricolare. Sempre meno studenti scelgono l'ora di religione cattolica. Eppure gli insegnanti di questa materia aumentano vertiginosamente, sia perché possono avere una classe di un solo alunno, sia perché alle elementari i vescovi procedono a immettere nuovi al posto dei maestri che, con l'entrata di vigore del concordato craxiano, se ne erano incaricati. Così questi particolari insegnanti nominati dal vicariato ma pagati dallo Stato si moltiplicano, il tutto mentre le scuole statali vanno in malora. E in barba alla Costituzione che prevede l'autorizzazione alle scuole private senza oneri per lo Stato, invece tutti gli anni sia le scuole religiose sia le università di proprietà religiosa vengono finanziate dallo Stato con grandi spese. Arrivederci a tutti, saluti anticlericali dal Circolo Giordano Bruno, da Pierino Marazzani, saluti. Tutti i